sulla questione della transizione, no? Nella società nostra oggi, ma oggi di sempre, si è sempre cercato di creare un modello di uomo e un modello di donna, no? Che fossero, proposti, ma io dico imposti, perché vengono imposti. Allora, parlo del Sud America. Il Sud America negli anni 50-60 hanno cercato di imporre un modello di persone attraverso le telenovelas, no? Che poi già veniva messo attraverso il cinema americano hollywoodiano, perché erano film dove non veniva minimamente trattato la questione di orientamento sessuale o nemmeno delle condizioni sociali, no? Delle persone, perché vedevamo gli americani ricchi, tutti, era il sogno di tutto il mondo essere come gli americani. Dopodiché questi modelli si sono andati a sviluppare nella mass media, nella televisione, perché io credo che è molto efficace, perché la televisione, qualsiasi persona ha la televisione, per cui è molto più facile arrivarci a tutte le persone. Per cui, non lo so se mi spiego, si è creato un modello di uomo, un modello di donna, per cui qualsiasi persona che vuole essere diversamente da quel modello viene praticamente accantonata. Ma questo succede anche attualmente con le questioni diciamo omosessuali, lesbiche e transessuali, no? Nel senso che io ho notato, a luglio noi abbiamo fatto un seminario molto importante con la comunità brasiliana, si chiamava Questioni di Genere, e abbiamo invitato la sottosegretaria della ministra della Segretaria delle Donne, perché c'è una segretaria che è una specie di ministero, però è specifico per le donne. E la cosa più interessante è che loro parlano della donna eterosessuale, della donna lesbica e della donna transessuale, si occupano di questi problemi. Infatti il nostro seminario si chiamava Migrazioni brasiliane, questioni di genere, no? Allora io poi da lì è nato, abbiamo chiesto una rivendicazione al governo brasiliano, che c'erano praticamente 45 ITER, tra cui a maggior parte era proprio per le persone omosessuali, le persone transessuali. Allora la cosa più interessante è che la sottosegretaria che è venuta è una donna lesbica, no? Lei era stata a Vienna in quello grande congresso sull'AIDS e poi è venuta qui da noi, che era un mese di luglio, faceva un caldo tremendo. La cosa molto interessante è che lei è una dottoressa, un dermatologa, e lei poi voleva sapere sul movimento lesbico italiano. Io le ho detto a lei molto poco, perché conosco poco, dico la verità, perché poi torniamo al problema delle lesbiche separatiste, che io non ho mai capito perché sono lesbica separatista, dovrebbe spiegare, perché mi ricordo allora quando io e Elena Belena eravamo andati a una riunione a Buon Pastore e non ci fece entrare né me né Elena Belena, no? Perché diceva che noi eravamo uomini, noi non eravamo donne. È successo negli anni 90. Sì, che poi lì dentro, che poi Elena, lì dentro c'era un ragazzo, però era un trans. Allora le abbiamo chiesto perché lui entra essendo un uomo e noi no. Allora ha detto perché nei documenti è una donna, per cui ha il diritto di entrare. Allora non era un perché sì. Che poi abbiamo fatto un casino, gli hanno fatto entrare, perché circa 50 donne lesbiche erano contrarie di queste cose, perché se noi dichiariamo essere donna, per quale motivo che non dobbiamo entrare? È logico che c'è tutta una filosofia, insomma, non voglio dilagare a questo, perché questo è una cosa. Poi volevo parlare proprio della doppia discriminazione che hanno le donne immigrate, che io ho notato che non sono molto, non solo le donne lesbiche, ma anche le donne trans che hanno dei problemi gravissimi di discriminazione, perché non sono molte volte ammessa nell'interno del movimento lesbico italiano. Ma questo non è perché, non, secondo me, perché già subiscono una discriminazione nell'interno della propria comunità brasiliana. Perché le trans brasiliane sono viste molto male nella comunità, sono viste come vedono in televisione, criminalità, prostituzioni e tutto il resto. E un'altra cosa che mi preoccupa molto sulla questione del movimento LGBT è la questione della religione, perché in Sud America sta aumentando una sorta di religione evangelica, e la religione evangelica è tanto o di più omofoba della religione cattolica, e questo mi preoccupa molto. Perché? Perché esistono diversi pastori di chiesa evangelica che condannano sia l'omosessualità che la sessualità. Per cui voglio solo dire questo. Tornando ieri, ho parlato sulla questione della consapevolezza. La consapevolezza è molto difficile essere, perché quando saremo consapevoli e riusciremo a fare delle cose, quando saremo noi stessi senza essere quello che gli altri vogliono che noi fossimo. Lina, 7 minuti di intervento, alla fine mi do il 2 minuti. No, ma io per adesso farò solo una cosa brevissima, devo dire. Allora, per quanto riguarda la questione della rappresentazione, la rappresentanza, la delega, eccetera, cioè è vero che la presenza e la partecipazione delle donne ai Pride, insomma, al primo Pride e anche agli altri, insomma, è sempre grande, cioè le lesbiche sono visibili nelle manifestazioni, c'è una sempre altissima partecipazione, ma la stessa cosa succede quando ci sono altri tipi di manifestazioni, sempre così, cioè la partecipazione delle donne è sempre molto alta quando c'è da partecipare, da fare qualcosa, da fare una lotta, eccetera, le donne ci sono, e il problema è la rappresentazione, non la rappresentanza o la delega, ma cioè praticamente nella rappresentazione non ci sono, sono invisibili. Cioè, anche se tu parli della FIOM, di metalmeccanici, cioè tu hai l'idea di una cosa maschile, cioè una manifestazione maschile, perché non c'è la rappresentazione delle donne, anche se sono tantissime poi a partecipare. Allora è questo il problema, è la rappresentazione delle donne, solo mediaticamente attraverso una persona che rappresenta tutte le lesbiche, ma proprio nella partecipazione, e questo è il problema. E poi invece parlando della potenza dei luoghi separati, diciamo, per capire quanto è importante, quanto è potente, quanto rompa con tante cose, non voglio raccontare, io sono in un partito ancora, e il primo congresso di Rifondazione Comunista nel 1991, le compagne femministe presentarono una richiesta per lo statuto di quello che poi fu il forum delle donne, cioè un luogo separato dentro il partito, e questa mozione, diciamo, fu votata contro dalla maggioranza, con tanto di brindisi dopo da i compagni per aver bocciato questa cosa, diciamo. Poi va bene, nel successivo congresso ci fu anche dentro inserito nello statuto, e da lì ancora non si muove, però voglio dire, era una cosa tremenda, cioè immaginarsi, cioè di rifondazione unità paritaria, perché sì, certo, cioè, non era accettabile, perché ovviamente il partito pensa per tutti, dunque anche per le donne, no? Non era possibile pensare alle cose da un luogo separato. Niente, sono questo. Appunto vorrei iniziare anche da questo, perché anche per me quando ho iniziato a fare politica i spazi non misti sono stati dei luoghi molto importanti, e penso che la cosa è proprio questa cosa dello spazio, no? Dire appunto, a riuscire a dire a un certo punto ai uomini non è che tutti gli spazi sono vostri, non è che potete andare ovunque e ci sono dei spazi che sono vostri, e cioè questa cosa. E poi però da quello che diceva lei appunto, cioè si vede che ci sono anche problemi che possono partire da questa pratica, quando appunto non è più pensata solo come una pratica, ma quando si vede come una cosa da essenzializzare, no? Che sia la gente che ci viene in questi spazi devono essere donne, e quindi chi sono le donne, cos'è una donna, cioè che ha un trans F2M quindi è ancora una donna, perché o perché si ha un nome femminile, o perché quando è nata aveva la vagina, un trans F2F invece non può essere perché non è, cioè, quindi ci sono questi problemi, cioè, quindi secondo me c'è, cioè, il separatismo è proprio da vedere come una pratica che può però avere, vabbè, se appunto c'è questa essenzializzazione, ci può essere questo, vabbè, un problema, cioè quindi un problema di, per proteggere, che per proteggere uno spazio che si vuole libero, che si vuole di esclusione del maschio etero, invece si prova a escludere anche altra gente. E secondo me è un'altra, cioè in Francia il movimento separatista, cioè radicale, se dico radicale, si è un po' diviso su due cose. Uno su questo, sulla questione transgender, cioè che facciamo dei transgender che vogliono partecipare a questi spazi, un M2F lesbica che vuole partecipare a uno spazio lesbico separatista, perché non potrebbe venire? E quindi si è diviso su questo, e si è diviso anche sulla questione delle pratiche BDSM, perché secondo me è un'altra cosa che si è sviluppata a volte negli spazi lesbici, con all'inizio questa intenzione pure figa di dire il sesso, non abbiamo bisogno del sesso maschile, non abbiamo bisogno dei maschi della nostra sessualità, e quindi vogliamo anche divinizzare, desacralizzare i simboli maschili, falici, che si sono nella sessualità. Da questo si crea anche un'altra essenzializzazione, cioè che la buona sessualità lesbica deve essere senza falli, deve essere senza tutta una serie di pratiche che sarebbero pratiche eterosessuali o maschiliste o che ne so. E quindi si è anche diviso su questo, cioè dicendo le pratiche che utilizzano visibilmente e in modo, cioè, che assumono il potere che ci sono delle relazioni sessuali, cioè appunto le reazioni slave master, le reazioni di dove ti attagli, tutte queste cose qua. Queste pratiche non vanno bene perché dicono c'è del potere nella sessualità, e quindi nella sessualità lesbica, nella sessualità tra due donne ci può essere del potere, e invece noi non vogliamo che ci sia potere nella sessualità. E invece, cioè, secondo me è una cosa, ed è pure una cosa che bisogna discutere, cioè la sessualità invece sì è attraversata da reazioni di potere, quindi il BDSM, ma anche tante altre, cioè sono anche importanti perché ti permettono di assumere quello che c'è, cioè il potere che c'è nella sessualità, però di codificarlo e di esercitare tutto questo. Graziella. Ma io sono una lesbica non separatista. Sì, vedendo quello sarà capito, però. Sarà capito? Sì. No, è proprio perché sono una lesbica non separatista, volevo rispondere a lei. Sì, perché invece lo capisco il separatismo e lo apprezzo. Innanzitutto perché una lesbica donna ha un problema, che è quello dell'accesso. cioè ci sono dei meccanismi di controllo sociale che ti impediscono l'accesso in moltissimi posti, esempio il passaporto, mica ti dicono di non entrare, ma non c'hai certo voglia di entrare. A noi ci impediscono la notte perché è pericoloso camminare per strada la notte. A noi spesso, ora meno, ma quando ero piccina io, ci impedivano l'accesso al cinema, perché se andavamo al cinema in due donne significava che uno da una parte e uno da quell'altra ti sedevano accanto due uomini. Il problema dell'accesso per una donna è fondamentale, perché tu non hai accesso ai posti, ma tu devi dare l'accesso a te. Quindi tu, l'accesso che viene dato a te, cioè che tu devi dare agli altri, è l'accesso innanzitutto al tuo corpo, tanto che addirittura l'atto sessuale viene rappresentato nella fantasia maschile come l'accesso e quindi come la proprietà. Quindi ti vuoi sottrarre a questa proprietà. Nel momento in cui non parliamo più di singola, ma parliamo di relazioni, di donne, tu hai bisogno di uscire da questa prigione dove tu sei, hai bisogno di conquistare l'accesso, ma tu non vai da nessuna parte finché altri continuano a penetrare i tuoi spazi, il tuo spazio vitale. Io so che fin qua non mi dà noia se una persona mi si avvicina, oltre devo essere io a dire di sì, ma mi viene insegnato che è l'altro che dice sì o no, non io. Io devo accettare, ok? Ed è difficilissimo conquistare la capacità di riappropriazione, capire che è un tuo diritto dire no, che tu non dici no per dire sì, tu non dici indifferentemente no, sì, tu sei una persona intera con dei diritti, dove il diritto è alla tua vita innanzitutto. Quindi non è questo percorso di dire no, io mi riprendo l'accesso, la capacità di dire sì e no, una battaglia contro la discriminazione. Quindi diamo l'accesso ai discriminati? No, non diamo l'accesso. Io ho dovuto imparare questo su di me, non do l'accesso, non do l'accesso al mio diario che mia madre mi apriva continuamente. Di quante lesbiche è questa storia? Cioè, di chi è cresciuta come donna, tu devi dare l'accesso anche al tuo cassetto. Io non avevo una chiave da adolescente, non avevo un posto dove mettere la roba. Le mitiche cassettine da gioiellino che tenga le bambine della Barbie, non è perché ci tengano chissà cosa. Il concetto del segreto è nei rapporti amicali delle bambine, no? Perché tu hai bisogno di tenere un segreto, perché tu non lo possiedi. E quindi anche solo quella piccola scatolina per te rappresenta te stessa, ti nascondi lì. Questa è come io sono cresciuta come donna, l'ho capito dopo, tanto dopo. E io lesbica non separatista, la prima cosa che ho fatto all'interno del movimento LGBT misto è stato cercare di creare spazi separati per le donne, pur definendomi non separatista. Perché il mio non separatista stava in questo, che io poi volevo andare anche, volevo fare quel passo più in là, andare anche al bar sport. Però se prima non avevo quello spazio dove crescevo, mi rafforzavo, imparavo a difendermi al bar sport, non sarei mai potuto andare al bar sport. Il mio bar sport è stato la CGI. E sono completamente dinamiche diverse. Ma se non ci fosse stato un movimento separatista, che pure a me mi criticava, diceva che ero il fiore all'occhiello della CGI, ed era pure in parte vero, però io lo sapevo che loro mi volevano per quello, ma io fra me e me mi sono detta, ok, facciamo il fiore all'occhiello, ma quando mi voglio togliere, mi toglierò. Perché per me in quel momento era importante la visibilità lesbica e sapevo che se all'esterno del mondo LGBT mi fossi presentata come lesbica senza invece quell'immaginario maschile che mi proteggeva, io ho fatto finta di farmi proteggere dai gay, perché se no a scuola mi avrebbero licenziata, come era successo 15 anni prima alla Maria Silvia Spolato. E questa è un'altra storia, ma io venivo dopo e quindi ho pensato, proviamoci. Non l'avrei mai fatto senza separatismo. Lo so che poi, come diceva lei, a volte questo poi crea problemi, ma io credo che abbia avuto una funzione storica per questo movimento, che senza quello nessuna di noi oggi sarebbe qua, sareste soltanto qua gay e trans, però end-to-end, cioè non ci sarebbe neanche Marx, perché in qualche maniera non avremmo mai spezzato il diritto di parola riservato al maschio nato maschio. E questo non sono le lesbiche separatiste a dirlo, questa è la società eteropatriarcale a dirlo. Ultima cosa, la prova di tutto ciò, faccio un po' di storia brevemente perché mancherà ancora un minuto e tre quarti. Qual era il mio sogno negli anni 90? Il mio sogno era di costringere l'arcigay a chiamarsi arcigay, arcilesbica e arcigay e lesbica. La prima cosa che io proposi, quello fu il patto per cui io accettai di entrare a far parte di quell'associazione, furono le quote, ma il 50%, non perché io volevo il 50% come donna, perché volevo che gli uomini avessero il 50% e non uno 0,0 in più, perché non gli spettava il resto. Quello fu il patto, e il mio sogno era questo, che gli uomini si rendessero conto della loro parzialità, non che io volevo portare la nostra parzialità, al contrario. In qualche maniera, assumendomi e cadendo in questo tranello, di cui poi non è che mi sono pentita, però che ora vedo, di farmi mamma e maestra dei maschi, perché poi in realtà, hai capito, rischiamo questo, e di rientrare in questo modo in quello, e questo era il rischio di fronte al quale mi mettevano le separatiste, sostanzialmente. Però la CIGE come andò? Che dall'arcigay uscirono le lesbiche, rimasero i gay. Uno dice, vedi, allora ci sei riuscita. No, al contrario. Chi votò l'uscita, la scissione? Un congresso dove era già saltata il 50% di rappresentanza, dove quasi tutte le lesbiche, dico quasi perché non era così, io non c'ero già più, votarono contro, però i maschi votarono la fondazione di Arcilesbica. I maschi. Oggi, immediatamente dopo, cosa fecero? Rimodificarono quello statuto, perché io, la mia proposta nello statuto non era solo il 50%, era il linguaggio sessuato, per esempio, che sennò non mi rappresentava. Fu scientificamente rifatto, cancellato tutto questo. E oggi, però, le lesbiche le tesserano. Arcigay è un'associazione mista. Ed è tornata un'associazione mista, senza più il 50%, senza più nulla. Perché mi serve? Per rappresentarle. E ritorniamo al concetto di rappresentanza. Cioè, mentre nella mia testa, nel mio percorso, e poi con le separatiste, cioè credo che sia forse una delle relazioni fondanti per me, tutt'oggi, con quel movimento separatista, che però non è il mio percorso, quindi vanno riconosciute le differenze, cioè, in realtà io ho capito, io non ho mai voluto rappresentare le lesbiche. Io ho voluto, mi sono prestata in qualche modo a renderle visibili, ma è tutta un'altra storia. Non è un caso che io mi sono mai sognata di candidarmi in nessun partito e di proseguire questa roba della rappresentanza, mentre il movimento maschile, che è quello che rappresenta, che è quello papam papam papà, ha fatto esattamente l'altra. Dico il movimento maschile, ma non è così differenziato da quel che abbiamo in mezzo alle gambe, perché se no, allora abbiamo parlato per nulla quello che dicevamo ieri, il ruolo maschile che viene assegnato è questo, e ci sono delle donne che al di là di quello che hanno in mezzo alle gambe poi rappresentano perfettamente quelle modalità. Non so se così... Io volevo dire due cose su, a parte che è difficilissimo, cioè nel senso che in realtà sono molto belle queste due giornate per quanto riguarda, però stanno tirando proprio fuori la nostra non disabitudine a rimettere al centro alcune questioni, che sono questioni che ci portiamo dietro, che comunque il movimento più o meno ha provato ad affrontare negli anni, ma che secondo me negli ultimi anni si sono un po' subito a parte nei nostri circoli, nei nostri collettivi, eccetera. E credo che questa sia una roba potente, sta riaprendo alcune questioni, secondo me, su cui c'è l'esigenza di riparlare, riaffrontare e riprendere anche dei posizionamenti, e credo che alle 5 giornate lesbiche, per esempio, che io ho vissuto e ho attraversato, anche la sensazione di uno spostamento anche complessivo, sia da un punto di vista proprio di voglia di relazione, di rimettersi in discussione, dei posizionamenti che probabilmente nel tempo e nella storia sono stati indispensabili in maniera rigida, perché il separatismo, per quanto mi riguarda, anche nella mia storia personale, devo tanto, nel mio percorso personale e nel mio percorso politico. Però e sicuramente, probabilmente negli anni hanno dovuto fare delle cose, prendere delle posizioni forti, tenere delle posizioni forti tuttora. Dopodiché sicuramente nel percorso ci sono delle questioni che stanno emergendo, perché emergono più soggetti, perché emerge l'esigenza anche di... è complicato che poi vado a dire, nel senso che io riconosco fortemente uno dei poteri della non rappresentabilità, perché è quello che ti permette di tenerti fuori, nella misura in cui tu riesci a mantenere un punto di vista fuori, sei fuori quindi dalle relazioni di potere eccetera, e quindi sei in grado in qualche modo di avere un punto di vista. Questo però non significa che poi non mi chiedo come io in realtà riesco a entrare in relazione al dentro, e quindi quello che uno dei centri che mi, diciamo, una delle suggestioni che mi ha dato Vittoria era: dobbiamo provare a capire come diventiamo il centro di tante centralità, cioè nel senso che il tentativo oggi, anche in questi due giorni col documento eccetera, non a caso spostando la T, è di dare un po' centralità a tutte le soggettività in qualche modo, no? La L, la G, la B, la T, tutte, cioè nel senso in che modo io mi riporto al centro innanzitutto di questo movimento. Per cui in che modo io le istanze, alcune istanze devo essere in grado di averle come centrali, per cui se in questo momento, se Elena giustamente dice è stato un forte limite il movimento LGBT storicamente sempre non aver assunto l'antisessismo, io devo essere in grado in qualche modo di fare un passaggio, cioè sono in grado di fare un passaggio di assunzione, che possono essere anche solamente... iniziare tra virgolette dal linguaggio formale, ma non è solo quello, siamo in grado di fare un percorso che in qualche modo mi faccia modificare le relazioni di potere anche tra noi, cioè siamo in grado di provare a darci degli spazi di costruire delle relazioni nuove, differenti, che quindi inevitabilmente hanno al centro antisessismo. Per cui credo che a livello di inizio di percorso come due giorni, cioè nel senso, questa è l'esigenza, cioè che sento più forte, cioè avere anche la capacità di continuare questo percorso che oggi in realtà apre alcune questioni e le rimette al centro. Dopodiché sta anche un po' a noi avere la capacità di capire in che modo le riusciamo ad argomentare, articolare, confrontandoci, discutendoci e anche mantenendo secondo me delle posizioni anche differenti, inevitabilmente tra noi, cioè nel senso che è quello che diceva Graziella, nel senso se devo tanto al separatismo, magari non mi sento mai femminista lesbica separatista, però per cui era risultato questo. Come ci sta Lina? No, Lina no. Ah, io cosa? Ah, sì. Lina, Antonio, scusa. Vabbè, ormai noi siamo allo scambio qua. No, volevo dire una cosa rispetto a quello che giustamente ha detto Elena, no? Sul, che poi ha ripreso anche Lina, sulla questione della rappresentanza e della rappresentazione, anche perché io, diciamo, questa questione per la mia militanza la vivo anche nell'esperienza di partito, no? Cioè dipende nella società nella quale viviamo dell'immagine, del consenso, quando tu vieni, quando si viene selezionati oppure cancellati. Cioè, per esempio Elena giustamente sottolineava il fatto che le lesbiche ci sono presenti, ci sono, però poi dopo non passano, no? E la stessa cosa nella selezione delle immagini, comunque quello che poi viene riportato dai media è la stessa cosa. Comunque io vedo che succede a livello di dinamiche di rappresentazione di quello che per esempio può fare il partito, cioè noi possiamo andare davanti ai cancelli della FIOM, possiamo raccogliere le firme per l'acqua pubblica, possiamo mettere in atto tutta una serie di altre iniziative, però alla fine nella selezione comunque della notizia da dare quel contributo comunque viene cancellato, perché adesso qua non voglio aprire assolutamente comunque questo discorso, però è la costruzione comunque del consenso soltanto intorno a certe proposte politiche che vengono percepite come più assimilabili a una certa idea di sinistra che si vuole far passare, no? La butto soltanto qui perché non voglio aprire comunque un altro versante che non è centrale qui. Sulla questione del separatismo invece volevo dire una cosa, perché anche io non sono una lesbica separatista, ma devo molto al separatismo, soprattutto grazie a quello che ha detto Graziella, nel senso che mi ha permesso il luogo separato di capire una cosa, che ho capito innanzitutto che le cose che riguardano le donne e le lesbiche sono quelle che fanno, da una parte fanno più scalpore, cioè se un gruppo di donne si riunisce in un luogo separato suscita comunque scalpore, suscita diffidenza, sospetto, possibile minaccia, eccetera, quando poi invece gli uomini si riuniscono da soli continuamente in molti luoghi, ma è una pratica diciamo legittima, legittimata, che non suscita nessuna forma di sospetto o di potenziale minaccia, no? E mi ha permesso di capire che diciamo la oppressione che le donne vivono, e quindi anche le lesbiche, è invece non suscita lo scalpore che dovrebbe invece suscitare, cioè il fatto che comunque sia la forma più estesa e più forte di apartheid. Cioè se noi il discorso comunque di esclusione delle donne dalla sfera della vita, diciamo, in tutti i suoi aspetti, la paragoniamo a quella dell'esclusione dei neri nella società prevalentemente bianca, ci rendiamo conto che l'esclusione delle donne va ben oltre, perché anche le donne nere comunque subiscono la doppia forma di oppressione ed esclusione, in quanto nere, in quanto donne, poi figuriamoci se sono lesbiche, eccetera. Per cui anche per rispondere a quello che diceva Leila, no? Il fatto di prevedere questi spazi separati è un momento preziosissimo per quelle diciamo, di noi che l'hanno vissuto, perché è il momento della decostruzione e della ricostruzione del sé. Per questo però c'è stato anche comunque un percorso, no? Le 5 giornate lesbiche per esempio sono state aperte alle persone transessuali, però è chiaro che esatto, perché poi tutti vogliono venire quando l'accesso è chiuso, quando si apre c'è nessuno, no? Cioè vanno anche probabilmente di iniziare, però era aperta e non ce n'era nemmeno se fosse stata chiusa. Quindi quelle diciamo che sono state percepite come irruzioni di alcune transessuali all'interno di questi spazi, io uso proprio volutamente la parola irruzione e violazione, perché è stata percepita in quel momento come una violazione di quello spazio, cioè io rivendico per me questo spazio, la questione dell'accesso, no? A me l'accesso è sempre impedito, io rivendico in questo momento, diciamo, io chiudo questo spazio, per cui quella irruzione è stata vista proprio come una violazione di quello spazio. Non si poteva percorrere così, diciamo, la strada dell'incontro, bisognava che ci fosse un momento di confronto prima, che poi c'è stato, e infatti alle 5 giornate l'accesso è stato aperto e vedremo. Quando le donne si vogliono separare, no? C'è questo che diceva adesso Vittoria, cioè questa pretesa comunque di partecipare, eccetera. Ma poi è un classico che quando parla una donna si alzano tutti, vanno a fumare nelle riunioni, poi classico, cioè parli tu e non interessa a nessuno. Invece tutti vorrebbero entrare nel tuo spazio, vedere che cosa dici lì. Elena. Sì, io appunto volevo rispondere in particolare alla sollecitazione di Leila, che ora non c'è, ma insomma io quello che nel senso che appunto le cose hanno dei percorsi e i percorsi bisogna seguirli e riconoscerli. Perché, per esempio, lasciamo perdere un attimo le lesbiche, Io ricordo che Marcella Di Colpo è sempre stata molto grata nei confronti di Graziella Bertozzo, perché forse questo lo ricordiamo poco, ma all'inizio degli anni 90 il movimento gay, che usciva da una forte normalizzazione sulla spinta dell'AIDS, aveva molto poco piacere a avere dei luoghi misti con le trans o con le travestite. Era molto mal vista la presenza di trans e travestite all'interno di luoghi gay. Parlo per esempio del Castro di Bologna, non parlo di Gogi. Marcella riconosceva a Graziella il fatto di aver avuto, tramite la presenza poi delle lesbiche, la possibilità di tornare in un movimento misto e più allargato, perché se no ci ricordiamo solo le ultime cose, cioè nel senso che c'è stata una parte del movimento gay maschile che aveva un grosso afflato verso la normalizzazione e nel presentarsi quindi pubblicamente come maschi, e quindi non voleva essere rappresentato accanto alle trans, perché questo creava confusione, non si sapeva chi erano i gay, chi erano le trans, eccetera. Per quanto riguarda appunto la questione trans, transgender, lesbismo, appunto l'ha già detto Vittoria, ma bisogna, non, a mio parere, bisognerebbe cercare di non avere una visione cristallizzata, perché dagli anni 90, parlo della metà degli anni 90 a oggi, c'è stato appunto un percorso. Io nel 96 ci fu la seconda settimana lesbica a Bologna, Villa Guastavillani, alla cui organizzazione io ho partecipato e mi autodenuncio in questo, nel senso che lì ci fu una grossa un grosso momento di crisi dovuto alla presenza di una transessuale tedesca che era venuta, e ci fu una sorta di patteggiamento con questa persona, nel senso che noi prima non ci eravamo posti il problema. In questo patteggiamento con questa persona, per esempio, noi mi ricordo che discutemmo con il MIT, nel senso che chiedemmo al MIT qual era la posizione, se era un problema, se non era un problema, cosa dovevamo fare. Marcella partecipò a questa discussione, eccetera, e Marcella era una persona molto laica in questo, e quindi disse che insomma non era un problema la posizione che noi avremmo assunto dal punto di vista della relazione politica. A questa persona a un certo punto fu chiesto di andare, perché noi avevamo detto: vabbè, tu resti, però noi non ci siamo posti il problema, se poi insomma, vedrà la collettività. E comunque ci fu una grandissima discussione. Dico, mi autodenuncio, perché io assunsi la posizione che fu presa collettivamente, tutte noi organizzatrici decidemmo che era un luogo lesbico a cui le trans non avevano partecipato, e io difesi quella posizione fino in fondo, come lo feci io, lo fecero le altre. Però quella cosa non è rimasta sterile lì, perché questo ha aperto una grossa discussione all'interno delle lesbiche, perché allora ci toccò porci il problema: ma allora cos'è una donna? Cosa lo decide se è una donna? La biologia? Questa discussione nel movimento lesbico italiano è partita lì e non si è chiusa tutt'oggi. Però molte cose sono cambiate, tanto che, come diceva giustamente Vittoria, le 5 giornate lesbiche erano aperte a chiunque, sarebbero state aperte anche alle transessuali che nel caso si fossero presentate. E questo fatto non c'è stato, ma ci sono stati tanti passaggi. C'è stato per esempio il fatto che io negli ultimi anni vivo a Roma, per me come per tante delle presenti è stato un luogo molto importante l'assemblea femminista e lesbica legata, diciamo, a quel movimento che si chiama Sommosse, di cui faceva parte a pieno titolo Ornella, che purtroppo non c'è più, ma che partecipava a tutte le assemblee. Per me, da questo punto di vista, la discussione con Ornella, lì dentro, fuori da lì, dentro facciamo breccia, eccetera, è stata una discussione molto importante, proprio perché con Ornella si poteva discutere senza il rischio che lei si ponesse dalla parte della vittima, perché questo non lo faceva mai. E quindi io mi ricordo che il gioco che portavamo avanti io e Ornella era che ci prendevamo reciprocamente per il culo per le nostre identità. Cioè, lei mi prendeva per il culo appunto in quanto lesbica, sul separatismo, sul femminismo, eccetera, eccetera. Io la prendevo per il culo dicendo: Ornella, non si sa mai come chiamare, ma come chiamare? Transgender? ex donna, ci capisci un cazzo, e sostanzialmente in questo gioco reciproco di ironia o autoironia per me è stata una relazione, proprio perché non era una relazione, come dire, in cui c'era il rischio di rompere la correttezza politica, no? Mentre, e mi sento questo di dirlo perché a me è una delle cose che ho trovato veramente pesante nel mio percorso, si fanno nome e cognome perché insomma sono già stati fatti, Elena Velena, in un convegno del 98 del 99, non mi ricordo, a Milano, organizzato da Arci Lesbica sulla sessualità lesbica, Elena Velena è stata invitata a parlare, quindi parlò in quanto tale, mi ricordo fece un comizio in cui io stavo in fondo alla sala e misi a urlare perché non finiva mai e quindi non c'era modo di rispondere, chiedi se aveva il treno, eccetera, dicendo era tutto contro le lesbiche separatiste, a partire dal fatto quelle sono più maschi di me perché hanno le gambe pelose, eccetera, eccetera. Allora, se il tuo modello di donna è quello, io con te non ci volevo niente a che fare. Perché io ho i peli, perché io mi vesto come cazzo mi pare, perché io non ho bisogno di rispondere a un modello di femminilità costruito da dei maschi e che tu evidentemente ti sei presa come tuo, non è il mio, e non, io su questo piano del discorso non ci sto. E ancora più grave, quello stesso discorso lei ne fece uno spettacolo per cui veniva pagata nei locali, lo portò, come si chiama, a Milano, quel locale che io lasciavo con la trasmissione televisiva, sì. Zelig, lo portò allo Zelig, quindi in un luogo non nostro, cioè in un luogo misto, nel senso misto con gli eterosessuali, non misto tra gay, lesbiche e trans, cioè lei aveva questo suo spettacolo in cui parlava di questi mezzi maschi che sono le lesbiche separatiste. Io lo trovo una cosa profondamente inaccettabile, perché se vogliamo fare un percorso in cui arriviamo a parlarci dobbiamo evitare di screditarci pubblicamente, perché altrimenti poi quando ci incontriamo ci mandiamo a fanculo, non è che ci ascoltiamo sostanzialmente. Quindi io vorrei che si ricordasse appunto che oggi non è il 95, che si sono fatti dei percorsi, che le 5 giornate lesbiche erano aperte a tutte, la stessa cosa per esempio, e chiudo con questo, cioè certi passaggi sono anche veramente passati anche rispetto al dildo, insomma io credo sinceramente, io a letto non mi pongo problemi politici sinceramente. Io a letto non pongo problemi politici e io ho molti amici separatisti e so benissimo che a letto non si pongono problemi politici, lo posso dire anche per esperienza, insomma, non si pongono problemi politici, ma un conto è quello che si fa a letto, un conto poi è quello che vogliamo che venga rappresentato pubblicamente, insomma, no? Nel senso che tante cose, per esempio, che una parte del movimento lesbico ha molto discusso, eccetera, a me per esempio non importa nulla. Cioè tutta la discussione sulla sessualità sadomaso, il dildo, eccetera, a me non mi interessa, cioè quindi non ne farei il centro di un seminario se dovessi organizzare un seminario. Dopodiché ho scopato con il dildo, senza dildo, credo che il sadomaso faccia parte della sessualità di tutti e di tutte, poi c'è chi lo fa con latte o con lattice e con latex e chi senza, chi col metallo e chi senza, ma insomma cercherei anche di ridimensionare certe tematiche. Per qualsiasi cosa. Chiamate la casa. Mi porta la splata. Pure la panna montata, cioè che è molto bello. Ma io ho un'esperienza un po' più traumatica invece con le lesbiche separatiste, invece perché conosco quelle più incallite, dure e cattive, non so. Dove, cioè, perché non penso, cioè la sessualità non la vedo soltanto come una sfera, ovviamente come una sfera privata, quello che c'è. Fino a un certo punto non sono d'accordo con l'idea che quello che faccio a letto non è politico. Cioè, soprattutto se prendiamo in considerazione tutta la... Non ho limiti politici, non ti dico che non è politico, però non mi pongo il problema se è politicamente corretto la pratica che sto svolgendo in quel momento. Soprattutto perché scopo le donne, se scopassi con gli uomini credo sarebbe più un problema. No, io volevo... Vabbè, cioè non cadendo, cioè non voglio cadere nella discussione separatismo sì, separatismo no, io volevo solo mettere l'accento anche partendo da quella che è stata la mia esperienza personale su l'importanza che invece io, cioè anche io ho fatto un percorso separatista a un certo punto quello spazio o quel diciamo quel momento ho iniziato a sentirlo come qualcosa che invece a me schiacciava, cioè fino a un certo punto ho avuto un valore diciamo nella mia liberazione, nel mio definirmi lesbica, però poi a un certo punto nella mia esperienza personale questo non è bastato più e anzi ho iniziato a viverlo come un luogo dove i codici di alcune compagne non mi rappresentavano più, soprattutto nel momento in cui, e qui voglio spezzare un po' una lancia a favore delle mie amichette froce, di quanto a me i froci, la sessualità dei froci e anche diciamo quella che forse, cioè anche se in maniera, diciamo la leggerezza e la gaiezza dell'essere frocio a me ha insegnato tantissimo e quanto è stato anche importante per il mio corpo e anche per liberarmi dall'oppressione e quindi sull'importanza che ho scoperto che gli spazi fino a un certo punto gli spazi di sole donne, di sole lesbiche si possono percepire come due luoghi separati, nel momento in cui ho iniziato a condividere anche politicamente degli spazi con dei corpi che diciamo per il modello eterosessuale dominante sono dei corpi che mi dovrebbero escludere, quanto questi corpi invece mi hanno insegnato, anche perché io penso che il modo in cui costruiamo il nostro genere e il modo in cui anche la nostra sessualità si costruisce anche in relazione al modo in cui per me è stato così, le froce costruiscono la loro e quindi come si crea una sorta di eco tra me e queste diciamo appunto le mie compagne froce e come anche io ne colgo il potenziale liberatorio anche sovversivo di questa cosa, appunto volevo sopportare le esperienze personali quanto a me questo ha fatto bene anche politicamente quando ho fatto come questo abbia fatto bene, cioè io lo dico sempre, il mio modello di riferimento che più mi ha convinto nella politica frocia non è stata una lesbica separatista ma è stato un compagno che un po' di voi conoscono che è Sciascià, è una compagna frocia e che per me è stato l'emblema del ok, quanto mi ha dato forza e potere nel senso positivo questo modello più che stando a Roma diciamo la ricaduta su se stessa e anche un po' la negatività che gli spazi lesbici separatisti a un certo punto di questa negatività di cui sono connotati gli spazi lesbici separatisti a un certo punto. Che dica? Sì, interessante questo punto. Vai, scusami con la cuffia, com'è? Senti la voce nazionale, ragazzi. Perché mi trovo mi sento avviata. Allora, no, perché è un campo per una persona. Scusami, io comprendo che la cosa faccia sorridere, però visto che mi trovo tra compagni amiche e amici e in un contesto di un'assemblea importante, ho ascoltato tutti gli interventi, come sempre interventi interessanti, Elena, Graziella, Vittoria, a tutti, mi sono piaciuti tutti, però poi ho pensato, ma posso dire qualcosa anche io? Me la sono posta sta domanda, perché? Perché proprio perché siamo tra compagni e compagni, quando noi abbiamo pensato un mese fa questo workshop, a un certo punto tra le varie cose, le varie ipotesi era questo workshop, no? E mi disse io voglio un bene del mondo, mi disse io voglio il mio spazio per questo workshop, non ragazzi, che devo dire, ci mancherebbe, mi sono un attimino, capito? Come per dire, fatti i cazzi tuoi, vieni qua, credo, stattano un attimo lì. Va bene. E quindi, molto volentieri sono venuta oggi sapendo che dovevo ascoltare. Poi, siccome Andrea dice poi dice 10 minuti poi diventano 20, io la voglio dire la mia, non fosse altro perché in 10 minuti. Allora si parla. Io mi sono fatto così, buttato giù di femminismo, lesbismo e transessualismi. No, ieri si è parlato di transessualismi, la questione dell'orientamento, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere. Ora, se noi siamo convinti di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, sì, sono due cose staccate, e non è che io ho fatto un percorso, mi si debba collocare, la società mi deve collocare per forza, no? Il discorso che poi dell'accesso, no? Che poi io divento, quindi accessibile, giusto? Ecco, e un attimo, no? Fermi, su questo dobbiamo un attimino chiarirci, e anche il movimento, credo anche noi dobbiamo tenere in considerazione questo, perché sennò poi diventa un boomerang quella, se tu non gli dai questo riconoscimento, se alle persone trans non dai per scontato quindi che l'eterosessualità, allora è una persona che può avere anche un orientamento sessuale, se ne parlava anche l'altra volta nel pubblico, ma sennò può essere o trans che o trans. Anche perché poi mi viene sempre quello che, diciamo, questo, visto che andiamo verso il 27 di gennaio, è la giornata della memoria, cioè le persone come me erano considerate omosessuali abituali. Cioè, non c'era questa cosa trans, questa roba trans, transgender, tutta una cosa è venuta dopo. E persone, siccome noi eravamo considerati incurabili, a noi ci mandavano direttamente le forme di crematorie. Prima si parlava di donna come? Donna biologica. Io cosa sono? Una donna giuridica? Scusate se questa cosa fanno sorridere, però mettetevi un attimo nei panni miei, no? O di chi è come me. Io cosa? Ecco, chi è come me, come se già c'è una differenza. Vedo un po' questa cosa, mi sento un po' sto muro che c'è. Mi piacerebbe stare là, no? Adesso a parlare. Che sono? Dai! Una donna giuridica, mi ricordo, io scorro, no? Si parlava tanto, poi alla fine io dissi, io sono una donna giuridica, in un'invenzione del legislatore, perché se non ci fosse stato 164 io non sarei una donna, quindi io sono una donna giuridica, perché il mio cariotipo è XY, raga, non c'è niente da fare, quello non è che me lo posso togliere, non è XX. E allora... Dice, donne, era fatto delle prima parlavi, no? Delle donne biologiche, allora le trans comunque sono. Era un grosso problema per noi, perché il femminismo ha voluto cancellare assolutamente il biologismo, e poi ci devi tornare. Questo è un dibattito che non si è chiuso nemmeno ora, sono passati 15 anni. Si è sempre in tempo per arrivare poi comunque possiamo andare avanti così finché io campo, poi dopodiché alla fine morirò, che se rimango in una posizione di un limbo così sospeso, non si sa. Allora, tante volte quando io mi definisco ex trans, quell'ex tra parentesi, ex, perché se è tra parentesi, perché dentro quella parentesi ci stanno le discriminazioni, l'ostracismo, il fatto che comunque non vengo vista nell'immaginario collettivo donna. E allora mi si vede come l'uomo che ero, le persone trans vengono viste come l'uomo che erano e la o la donna che sono, e perché se no, se fosse così, io non avrei il problema, nonostante tanti anni dal mio percorso di transizione, ancora che le persone si rapportano con me al maschile, quindi non mi riconosco nella mia identità, no? Eppure sono anni che ho fatto il percorso. E allora cos'è che mi manca per non subire questo e per avere una collocazione che non debba essere giustificata, come parlava ieri Massimo, che comunque mi devo sempre giustificare e raccontare, no? Per cui non si mette in discussione che Vale è una donna. Cos'è quindi che determina nell'immaginario collettivo quello dice quella è una donna? E allora io mi sono detta la gonna e i pantaloni, metto la gonna piuttosto che i pantaloni, perché i pantaloni fanno più maschio, non lo so, aspetta, vado avanti, capelli lunghi, capelli corti, se c'ho una seconda o c'ho una quarta, se c'ho un culo così o c'ho invece il culo piatto, se c'ho i fianchi stretti oppure no, cos'è che mi fa? E quindi l'immagine collettiva, qual è quindi quell'immagine? E poi vengono i peli, no? Il discorso dei peli, perché se io ci avessi i peli lunghi così, dico, caspita, se va a vedere, mamma mia, è proprio una ragazza che si fa crescere i peli da prendere. Però se io non volessi entrare in quel disegno, sono libera di farlo, non è giusto? Però in questo non significa che tu non mi debba riconoscere. È ancora più complicato, vuoi, proprio perché anche se io mi depilo 4 volte al giorno, comunque sempre non è quello che mi dà il lascia passare, ma mi si dà sempre questa collocazione, diciamo, di mezzo. E questa collocazione di mezzo o noi pensiamo, ma non perché io non ci dormo la notte, perché sinceramente io le ho superate abbondantemente queste cose, però mi pongo il problema per chi poi facendo un percorso alla fine dice che cosa sono all'interno del movimento, cioè se a un certo punto io mi posso quindi tranquillamente riconoscere, essere riconosciuta e vivere se sono una trans lesbica dentro un'associazione solo lesbica e quindi non esserci il problema, ma è il documento che lo fa, no, perché noi proprio perché noi il documento è un riconoscimento, non ce ne frega niente, quindi è sull'identità, quindi sul riconoscimento dell'identità, sul rispetto dell'altra persona che dice io mi chiamo Federica, mi chiamo Antonio, mi chiamo come mi voglio far chiamare, vivo il mio ruolo di genere, così. E allora, perché mi è successo anche stando in associazione, che anch'io sono stata nell'Arcigay, no? Dice ci sono stata, come ci sono stata dentro l'Arcigay? Ci sono stata come la era, ma ero già donna giuridica, però come trans, capito? E quindi quella cosa è lì. Poi c'erano le lesbiche e poi c'erano i gay. E poi io feci di tutto, no, per stare all'interno delle liste, delle cose, delle lesbiche, per seguire tutte quante le varie faccende, però non c'era accoglienza, cioè c'era, tu sei comunque stata, sei, appartieni a. E insomma io porto queste riflessioni perché su questo mi piacerebbe che ci fosse più chiarezza, fosse altro, perché se no non solo separatiste sono le separatiste che vogliono essere separatiste per quelle ragioni che hai detto te, ma sono separatiste anche le altre persone che non lo vogliono essere, ma lo sono nei confronti di chi è una donna giuridica. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Niente, chiudo qua, porto questa cosa all'interno di questo workshop e credo che valga in maniera speculare anche per la questione trans gay, per i gay. Però in questo momento si sta parlando di questo tema, per cui lo porto e magari se c'è qualche persona che mi dà una risposta o prova a dare una risposta o prova a ragionare con me su questo tema, mi farebbe molto piacere. C'è una postilla di Leila, l'ultimo intervento in linea, e poi se Elena e Vittoria vogliono provare dire due cose di chiusura del workshop, facciamo qualcosa da base. No, volevo chiarire una piccola cosa sulla questione Elena Velena. Io non sono mai stato d'accordo con lei a questioni di lei attaccata da separazione. perché giustamente aveva detto la Graziella, io pensavo che per capire qualcosa tu dovevi frequentare, dovevi conoscere il motivo. E noi sapevamo che il separatismo era una cosa per difesa della propria questione omosessuale femminile, perché le donne erano sempre attaccate. Per cui io la questione, per esempio, di lei, già io non riuscivo, io donna transessuale nata così, non riuscivo a concepire che poteva essere una trans lesbica, che non entrava nella mia testa. Quando ho conosciuto Elena Velena nel 90, che siamo andati a un programma di televisione dove c'era una fascista chiamata Cecilia Gattotrocchio, non so se avete sentito parlare, che ha scritto un libro, La vita di trans, no? E poi c'era un capitolo dove parlava un tuffo nella vita dei viatus, no? Io l'ho criticato tantissimo perché poi parlava di porpora, ma non era questa porpora, era un'altra che lei ha messo il nome di porpora, che porpora era più conosciuta, no? E questo per me ha dato, in quello programma di televisione, io ho risposto molto male a Elena Velena, perché io non riuscivo a capire come una persona faceva tanto sacrificio per adeguare il corpo al femminile per poi piacere alle donne. E poi frequentando lei ho cominciato a scoprire, per questo che io, per esempio, io non ce l'ho niente contro le lesbiche separatiste, perché prima di tutto c'era una differenza tra me e Elena, perché Elena era lesbica, io no, io mi sento una donna bisessuale più che altro, non dico eterosessuale perché ho avuto esperienze anche con le donne, però le devo dire, io ho sempre trovato che Elena Velena esagerava quando parlava del separatismo, poi non l'ho saputo perché, però okay. Volevo dire alcune cose che mi è venuto da pensare queste cose dopo l'intervento o durante l'intervento di Barbara, perché io penso che il compito potenziale delle lesbiche è veramente complicato e difficile. Faccio un po' un paragone con quello che io pensavo, tutti ridono quando dicono che io a un certo punto sono diventata lesbica, ma è vero, insomma, prima ero felicemente eterosessuale. E quello che pensavo prima, il mio essere comunista. Io ho sempre pensato che il comunismo è una cosa che non si è data, e dunque è una cosa che tu. È un percorso, una cosa che tu ti devi inventare, che devi sperimentare, perché diciamo è molto facile conservare quello che c'è, quello che sappiamo, quello che esiste, è esistito. È molto difficile invece cambiare, fare una cosa completamente diversa, e allora è una costruzione, una cosa complicata, e non sempre arrivi a risultato facendo anche delle prove. E la stessa cosa ho cominciato a pensare quando sono diventata lesbica, cioè adesso uso una parola vecchia ma penso molto attuale, noi viviamo una società, una cultura che fallocratica, fallocentrica, e tutti ci stiamo in mezzo, trans, gay, lesbiche, donne eterosessuali, uomini eterosessuali, cioè tutti, c'è un solo immaginario, c'è un solo c'è una sola rappresentazione, è simbolica, e ci siamo tutti dentro, non c'è niente da fare. E tu dovresti inventarti una cosa nuova che non si è ancora data, e allora è difficilissimo, puoi andare per tentativi, puoi provare, ma è molto difficile costruirlo. E per quello che diceva Barbara mi ha fatto pensare, ho sempre pensato a questo rapporto che hanno i maschi con il corpo, che è vero, secondo me loro sono molto più liberi, ma perché è ancestrale questa cosa. Io quando sono arrivata in Italia, dopo poco tempo, sono andata a un consultorio per avere un qualche metodo anticoncezionale che funzionasse per me, e mi ricordo questo incontro, ovviamente così messi come eravamo, con tante donne, e questa ginecologa che spiegava come funzionava il diaframma, come si inseriva e dove arrivava, come era. Quando ce lo fece vedere, era una cosa a profonda così, tutti a guardare, ma come è possibile, dove va questa cosa? Cioè, tu hai l'impressione, cioè, di avere una vagina che è speculare a un pene, cosa che poi scopri che non è così, cioè, noi non abbiamo dimestichezza con il nostro corpo, è una cosa che ci portiamo dietro non so da millenni, boh. E allora molte volte è più facile imparare dai maschi, nel senso che loro hanno un rapporto con il proprio corpo completamente diverso. C'è una bambina di 3 anni, se tu vedi che si mette i ditini lì e si tocca, c'è una cosa terribile subito, e invece se lo fa un maschio, anzi, lo puoi anche aiutare a farlo, no? Però è questo il modo, cioè è imparare dai maschi imitando quello che loro fanno, o il rapporto che loro hanno con il proprio corpo, che ci serve. Non lo so, cioè, secondo me, per quello dico, ho detto all'inizio, il compito nostro è molto difficile, perché inventare qualcosa che non c'è, che non si è data, che non esiste. Cioè, inventarsi un altro immaginario, non partendo dall'unico che conosciamo, è un'impresa, insomma. Per quello, insomma, è difficile capire. Io non ci penso proprio.